Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa abbiamo parlato di Smart Campus, l'iniziativa dell'Università di Trento che punta a rendere più facile la burocrazia universitaria anche col fine di attrarre studenti stranieri. Questa sera riapriamo questo importante capitolo delle università intelligenti che continueremo a sviluppare anche nel corso delle prossime settimane, dato che sono molti gli atenei che stanno dando vita a programmi interni di intelligentamento, diciamo così, con l'obiettivo proprio di trasformare gli atenei in isole intelligenti all'interno della città, dei laboratori in vivo che hanno l'enorme vantaggio, utilissimo, importantissimo, proprio per fare sperimentazione, di una popolazione che è particolarmente istruita, proattiva e insomma che guarda al futuro. E questa sera è il turno dell'Università di Milano Bicocca, che è la prima in Italia ad aver avviato un piano strutturato per la riduzione della CO2, piano che è affidato al centro di ricerca universitario Polaris. Chiara Albicocco ne ha parlato con la presidente di Polaris, Marina Camatini. Sentiamo com'è andata. Noi abbiamo fatto una valutazione di uno dei 25 edifici del campus, abbiamo monitorato l'edificio U7, che è un edificio nel quale ci sono insediamenti non di laboratori sperimentali ma gestionali, occupati da studenti e da docenti che però utilizzano computer e non hanno in atto sperimentazioni di laboratori. Mm-hmm. E abbiamo valutato quelli che erano i consumi e abbiamo quantizzato queste emissioni e abbiamo dato questi dati all'amministrazione centrale, al rettore. Ne abbiamo discusso e abbiamo deciso che era il caso, visto quali sono i costi e le emissioni, di intervenire per fare delle proposte di contenimento e di riduzione. Ecco, quindi avete, come dire, osservato che la quantità di energia consumata, riscaldamento, fotocopiatrici, eccetera, eccessiva. Sono molto eccessive. E allora che cosa si può fare? Che cosa avete pensato di fare? Si può innanzitutto fare un quadro della situazione reale per capire come sono le emissioni, quindi i computer come vengono tenuti, accesi, spenti, le luci, i condizionamenti. È un'università nuova, quindi ogni struttura dipartimentale ha la possibilità di regolare all'interno sia il condizionamento che il riscaldamento. E quindi questo può essere un bene ma anche un male. E allora il problema primo che ci si pone è quello di fare in modo che le persone, sia i dipendenti universitari che frequentano per motivi di lavoro le aree, sia gli studenti che le frequentano per motivi di studio, abbiano delle informazioni su quelli che sono le possibilità di contenimento delle emissioni, perché è evidente che la formazione è il punto di partenza principale per questo progetto. Quindi informare quali sono le possibilità. Quindi uno lascia sempre il computer acceso anche la notte? No, non va bene. Lascia le luci accese perché se le dimentica o perché se uno non lo sa, ok, può essere scusato, ma nel momento in cui tu dai le informazioni c'è un obbligo morale di seguire queste indicazioni. Ecco, poi se pensiamo che il campus comprende all'incirca 25 edifici, 600 laboratori, 200 aule didattiche, insomma lo spreco ovviamente è enorme. Non solo, tenete conto che nel 2011 l'edificio U7 ha speso per un anno di energia 600.000 euro. Allora un contenimento anche solo del 15%, che si può realizzare benissimo senza nessun intervento strutturale, quindi senza un investimento di cui inventare qualcosa, quindi è solo attenzione a quello che viene utilizzato. Un contenimento del 10-15% consente di fare borse di studio, ok? Quindi con risparmio, certo. Un risparmio pesante che consente un utilizzo dei fondi in un modo molto più efficiente. Quindi diciamo in questo anno in cui incomincerete la sperimentazione, che cosa farete? Farete formazione, quindi cercherete di avvisare? No, la formazione viene fatta durante le ore di lezione, quindi non si perde tempo. Partiamo subito dall'edificio 1, che è il nostro, l'edificio nel quale io vivo, che è l'edificio di scienze ambientali, che è il primo che è nato in Bicocca, perché questo edificio ha degli insediamenti anche sperimentali, quindi anche laboratori di ricerca, quindi è il primo edificio nel quale saranno misurati anche i consumi delle cappe, dei gas tecnici, degli strumenti, microscopi elettronici, quindi di tutta la strumentazione che viene usata sperimentalmente. Quindi più energivoro sicuramente. Molto più energivoro e quindi molto più compatibile con un contenimento di costi, perché anche qua i ricercatori devono avere delle corrette informazioni su quelli che possono essere i contenimenti. Mi pare che dai dati che avete diramato, l'impronta ecologica, vale a dire l'impatto che ha l'attività umana sull'effetto serra e quindi poi la quantità di anidride carbonica emessa, mi sembra che l'abbiate calcolata intorno a 1700 tonnellate l'anno. Esatto, così, nell'edificio 7. Ecco, potete prevedere più o meno quanto risparmio? Allora, senza interventi strutturali, come già dicevo, quindi che non comportano investimenti economici da parte dell'università, un contenimento almeno del 12-15%. Vale a dire in termini economici? In termini economici parliamo di milioni di euro. E quindi questi soldi potrebbero ovviamente essere reinvestiti in attività a favore degli studenti. Ecco, in chiusura possiamo dare qualche indicazione magari a qualche studente, qualcuno che ci sta ascoltando da altre parti d'Italia, cosa può incominciare a fare nel suo piccolo in università per risparmiare? Sì, certo. Può cominciare a stare attento alle luci dei locali che frequenta. Quando uno esce dal locale deve spegnere la luce, soprattutto nei mesi nei quali c'è buio, deve spegnere i computer quando non vengono utilizzati. Questo è per quello che riguarda gli aspetti energetici, deve spegnere gli strumenti che consumano energia, parlo dei laboratori sperimentali, quando non vengono utilizzati. Questo però comporta anche un'attenzione in quello che è la gestione dei rifiuti, perché anche i rifiuti hanno un impatto che alla fine è un impatto di tipo energetico. Ok, quindi quella valutazione che sarà fatta e il contenimento delle emissioni deve riguardare anche un'informazione su come gestire i rifiuti urbani. Torneremo su questo argomento, ma per ora ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.